Ciao Mario, buonasera anche a te, sceriffo. Ai. Buonasera a tutti e due, ok. Ma Mario, dove sei? Ti esce qualche macchina? Perché ho mangiato un po' di porco, mi ho fatto fuori una bottiglia. Una mela. Ciao Mario, e allora? Come va? Mica c'è troppo freddo per stare a bere lontano. Ah, stiamo andando col portatile. Ma io mi sto a sentire io che sto facendo un po' di lavoro qua. Ok, mi prendete. Sceriffo, si sta finendo la casa, si è finita una villa. Lo paghi, se vuoi ti do il mio, Mario, ci mettiamo d'accordo, ti do il mio. Dai, tranquillo che nel mio ci metti due moto dentro e avanza a posto anche. Ho il garage enorme. No, sto scherzando, non lo sto vendendo, era una battuta, anche perché mi sa dato che non c'è nessuno soldi in giro per pagarlo. No, è nuovo, no, il camper è a posto, no, è tutto liquidato, non c'è problema. No, perché vendendolo non lo venderei meno di 85. Costa di più da una casa. Con le capre da 130.000 euro. Ma è l'unica regola, è che se entri in città mica ti puoi aprire a tendalino, capito? Non è che ti puoi mettere a rostire nel parcheggio che ne so della Conad, perché poi del resto è un furgone normale, classificato come un furgone normale. Si paga 30 euro di bollo l'anno, 180 euro di assicurazione all'anno, e c'è bel vento, non lo so, non ci sono sceso al porto per vedere cosa che vento è, boh. E comunque ha tutti i comfort, pavimento riscaldato, stufa normale, parabolica, due televisori, uno in camera da letto e l'altro nella zona living, baracchino, c'ha tutto, non le manca niente. Bene, ci credo, guarda, è la mia, il mio capo era la camera da letto, ha fatto la camera da letto come a casa, È grande, non è piccolo. Qualche giorno che sia lungomare lo prendo, così provo anche l'antenna che gli ho piazzato. Una midland alta, però è alta, è 1,80. È altina, però vabbè, per il momento rimane così. No, ancora no. Sì, vabbè, ma non ho fretta, capite? Ma lo stilo è solamente per la portata, se vi mette in lineare, tutto lì. Vabbè, a me interessa un po' la ricezione. E niente, perché con quella chiave l'originale era corta, ti ripeto, era proprio corta a corta. Non andavo da nessuna parte. Mi sceriffo, ce l'ha il camper. Ah, si faceva proprio i denti. Mia ci uova, buonasera. No, con Mario, non lo senti? No, non arriva. Ha detto di abbare lontano. Sì, arrivare tu un balai lontano. E al vicino non poteva rimanere perché c'erano gli schizzi d'acqua, le stava inondando la macchina. Ah, perché mai travecce? Ci è una bella mareggiata, non sono ancora uscito. Va bene, continua, già sono qua io, ci sentiamo dopo. Dai, sono qua, riprendi da casa, veloce però, che esce anche più forte da casa, davvero qua. Allora mi vendo gaggia, mi vendo tutto, mi rendo in camper a vivere, non si può più vivere, no. E non è una brutta idea, no? E sulla... sono fatto gasolio stamattina, ho 1,58, questi sono pazzi. Ma gasolio per casa? La macchina. Ah, quanta la benzina è oramai, no, non c'è più niente da fare, oramai, è così. Bisogna fare il gabbo, bisogna scendere fuori il gabbo. Poi... è ancora nuda. Niente. Basta non pagare più niente, Mario. basta, non fare. E dove sei adesso? Ti sento anch'io piccolo piccolo. Ho capito, dopo il villaggio verde, dai. Stai per imboccare via le vigne. Oh, ti ho proprio perso adesso, Non riesco a sentirti. Dai, ci mettiamo d'accordo, dai. Ma è tranquillo. Ma quanto esco bene, ma quanto esco forte. E allora sei arrivato Mario. Chihuahua, tu no no no no, Chihuahua, no no no no no, Chihuahua. Ok. Genio. Ciao Super Luca, buonasera, allora. Beh, qua siamo, è andata via l'acqua, maledetti, cazzo, maledetti. È un casino, è sentato un casino. Anche lì a Porto Torre so che non c'è acqua, vero? Confermi. Dicono, io ce l'ho, a me non manca mai l'acqua. Ma c'è il serbatoio? Sì, ho un serbatoio grande. Capito? Abitando leggermente fuori Porto Torre, il pozzo, l'acqua non manca mai. Ho capito. Mannaggia, vabbè, mi sono fatto la doccia stamattina io, ma già non so, già sono pulito. Perché stasera devo uscire, capito? Ma sono pulito, dai. Stamattina l'ho fatta, le 9 qualcosa. Alla fine non ho manco sudato né niente, sono abbastanza pulito. Allora già va bene. Io mi tra un po' vi lascio e devo entrare in doccia e devo uscire. Vai. Io esco più tardi. Prima sistemo la cuccioletta, io la pappa, la porto, perché poi io rientro verso mezzanotte, l'una. Allora, dimmi una cosa, ma aggiusti anche autoradio? Non ho capito. Aggiusti anche autoradio? Cosa c'ha? Non so, l'autoradio del camper, quello doppia DIN, quello quadrato grande, che come scalda si spegne. Penso che siamo partiti finali. Come scalda si spegne? Allora non c'è un ultimo raffreddamento questa radio. Cos'è? Il 2 DIN? Il 2 DIN, sì. Non si può modificare mettendo in una ventolina. La voleva mettere una ventolina, se nel cruscotto del camper. Vabbè, come vuole messa all'interno dell'autoradio, vuole ventoline piccoline. Metterla direttamente dentro la... ma sicuramente oramai sono già partiti i finali, perché con la radio ci mette un po' di più a spegnersi, col CD lo fa subito. Basta che sollevo un po' più il volume, sollevo il volume, scalda un po', tu non si spegne. Allora, se sollevi il volume un po' si spegne, non è detto che siano i finali, perché se sono i finali non anda blu più. Magari da quanti ampere è la batteria? La batteria di cosa? Del camper? Di solito può essere anche l'amperaggio della batteria. Ti faccio un esempio, io stavo provando l'ho restituito, un autoradio, l'ho attaccato alle casse, l'ho attaccato a questo qua, che ha alimentato i 25 ampere, come sollevavo, pum, si spegneva. Però era dovuto dall'amperaggio, capito? Pochi ampere. Ma la batteria è quella da 100 ampere, da spunto, cioè da spunto, capito? Il camper parte subito, non penso sia roba di batteria. Sì, ma l'alimentazione dove la prende? L'alimentazione non lo so dove la prenda, perché non lo so, l'impianto l'ha già fatto. Perché se la prende magari lì da quella zona lì, che i cavi sono sottili, sicuramente l'assorbimento dall'autoradio è superiore e ti fa quel problema lì. L'unica cosa, l'unica prova che potresti fare, comunque non è dai finali, perché sennò non sarebbe andata la radio, anche se surriscalda. Poi magari non c'ha un'ultima ventilazione, non so se ha un dissipatore questa autoradio, Penso che ce l'abbia comunque all'interno. E l'unica è dovresti smontarla, aprirla e la devi alimentare dalla batteria. Magari li metti una cassetta, lo provi e vedi un po' dove che scalda e le prove bisogna fare. Ho capito. devo comunque smontarla. No, perché la sto già comprando nuova, però poi magari se non è quello l'autore non c'ha niente. La vuoi comprare nuova? Boh, e guarda, ci sono, prova a vedere su YouTube, no? Scrivi quello che il problema ti fa e loro ti aiutano, cioè ci sono i cosi, capito? I tutorial. È vero, non ci ho pensato, lo sai. Adesso ci provo. C'è una cazzata, boh, strano che si riscaldi, si spenga, boh. È un problema. Non ti dirò una cavolata, non lo so. Io per fare queste prove dovrei aprirlo, provarlo con una cassa esterna, qualsiasi cassa, per vedere un po' se lo fa. Non lo so, ti dirò veramente una bugia. Ti dirò una bugia, magari non c'è niente, ma prima te lo faceva. No, però la schermata rimane, capito? Noi si spegne, manca praticamente l'audio. Sì, quando tu sollevi manca, sì, l'ho fatto anche a me un autoradio di quelli buoni, quelli, aspetta che marca era, qua c'è il pomello grande, sembra una ruota di macchinetta, no, Udiola, boh, se non mi ricordo la marca, comunque di quelli buoni, sollevavo, boh, si studava. E cosa era? Sicuramente l'alimentazione, beh, un 30-25 ampere non bastano. Questo attaccato c'è anche il coso, il, come si chiama? Il subwoofer alimenta 2-4 casse, il subwoofer. Un casino questa autoradio, insomma. Adesso non mi ricordo che marca era. Comunque di quelle buone, quelle costose anche. Devo chiamare a Podige, quello di Sassari, e farmelo controllare da lui. Infatti, anche da Podige puoi andare. Udiola, forse Udiola, sì. Aspetta, 50x4 mi pare. Comunque già toccava, lo mettevi a minimo, poi lo sollevavi e poi si spegneva. Non è che si riscaldava, si spegneva proprio. No, ma nel mio la schermata rimane. Non va l'audio, si blocca l'audio. Sì, ti ho capito. Ho trovato un giro di moto oggi, no? Ma cosa? Perché c'è vento? No, c'è freddo stasera. C'è freddo, c'è una tira di ci sono, vediamo. Quelli cigari è impossibile. Riesci a vedere. Lo sta aggiornando. Ma 12 gradi, ma c'è freddo, boh. C'è freddo, poi ha messo pioggia. Alle 19, vabbè, no, non è a me, cioè il percentuale non è molto alta, 35% oggi, domani comunque l'ha messa la pioggia, domani, lunedì, e poi adesso piove martedì, mercoledì. E la salva, lascia vedere, Mario, tu Mario lo sentivi da casa? Sì. Ehi, basso, come si chiamava? Una specie di disturbo io. Una specie di disturbo che sta rompendo le palle. Sono a 10. Invece lui. Ah, sempre Santiago. I disturbi sempre a Santiago 5. Sempre. Poi si allontana dalla sua via e va via. C'è invece qualcosa che lo disturba. Quanti gradi ci sono a Sassarino? Ciao Cla, 14 sta segnando. Vediamo che ne ho, dici. C'è freddo, io sento freddo. Se lo sento io vuol dire che è freddo, sennò io uso cudichissi ancora leggerini. Vabbè, stasera mi metto la maglietta, maniche corte, il golfino quello leggero, il giubbotto grosso. Normale, Cla, fuori dentro la città c'è sempre più caldo, diciamo la periferia. Ma io da Lucca sono almeno 200 metri più in alto. No, 400 metri, io mi uso l'uso Taugio. È un bel alto qua. Da qua a Sassari ci sono sempre 2-3 gradi di differenza. Come da me con Porto Torres. Ma un bel freddo c'è qua. Qui c'è il vento freddo, lui. È proprio il vento che è freddo, capito? Non so se è blu. È maestrale, tramontana, cosa ne gioco. Stavo chiacchierando con Salvidio, io lo stavo spiegando di prendere quella fascetta che mi hai detto tu, quella per i tubi, come si dice, passo, vedrà, vedi, va con l'antenna lì ormai, cazzo, mi la taglia da una mola, adesso non so se risuona di nuovo come prima, qui ci vorrà l'accordatore sicuramente. Quello che ti ha prima la batte si antenna, non hai visto che manca, dove c'è la resina, lì ne manca un pezzo, come fai a inserirla? Cosa mette quel tubo dentro la resina? La mette in corto, ci manca l'isolatore lì, cosa? E poi prende solo il tempo. Sentiamo ora. Vedi un po' com'è il passaggio che ho lasciato la porta aperta. Chi è che sta parlando? Qualche cuocomane come Luca. Sì, tu vedi cuocomane col potabile. Mi ti ho visto mi dallo Smith. Ma stai sbagliando, io potabile non ne ho. Eri tu con potabile, eri. Senza antenna. Non è vero. Drogato. Boh, c'era qualcuno passo passo che stava parlando qua, non lo so. Sì, vabbè, infatti, come dici tu, ormai con l'antenna lì, se ti ricordi bene, tantissimi anni fa, avevo recuperato quell'antenna lì in via Grazia Deledda, che poi in un casino l'avevo tagliata, non andavi a me, poi me l'avevi regalata tu, quando hai detto che me l'avevi data tu in bustata. Non serve, ma l'ho già vista, mi ha mandato le foto, ciao Natali. Mi ha mandato le foto, non serve più quell'antenna. L'hanno tagliata dove c'era l'isolatore della resina lì, come fai? Ce le metto il tubo, la fascetta, non si può mettere, no? Non si può mettere. No, non funziona quell'antenna, solo bigliette in tempo e blu. Beh, in effetti così da. E vabbè, tu ci sta provando. Cosa ci vuoi fare? Ci sta provando. E poi la mia, vabbè, si farà prossimo anno, quest'anno, sempre se non passano a sistemare i tetti, se no un bel casino mica, un bel casino, perché se sistemano i tetti, mettono le tegole nuove, io non ci metto più piede su, perché se fai danno paghi. Lo so, io odio i tetti con le tegole, non l'ho mai voluto dire. Gappa. Chi era oggi il portatore di cui stava parlando? È entrato, come si chiama, sceriffo. Sono io, Salvini. Mi senti? Ho lasciato la porta aperta per sentirmi meglio. C'era la volgibile. Già ti sento, Antonio. Ciao, buonasera. Sono pronta a ieri? Con la temperatura, meglio mi senti? Sì, quando c'è freddo ti sento meglio, Antonio. Ah, che bello. Vabbè, io mi sto sentendo, intanto sto mettendo due piantini. Che Antonio è? Antonio sceriffo. Boh, ma la pistola è già. Ehi, una vita. Mi hanno combinato, posso andare con Antonio. Vediamo un po', Antonio sceriffo, mi ascolti? Sì, che ti sento. Anche se sei un po' più giovane di noi, ma già ti sento lo stesso. Sì, io sono giovane. Abbastanza, quasi 47. Qua ci sono 67 primavere. Cosa ha detto? Che lì ci sono 67 primavere. 20 anni di più, c'è, cosa vuoi che sia? Già non sono pochi, ma non sono manco molti, dai. Va bene, comunque ti ascolto, un po' basso ma ti ascolto. Sì, a Porto Torres? Sì, a Porto Torres sono, hai capito? Vabbè, sto facendo cosa, se no non faccio il tempo, che se chiama, il buio è un casino nero. E dici, mi sono un mollo. No, è campagna, eh. È campagna in macchina. Ma Mario non è rientrato oggi? No, non l'ho sentito ancora. Mario? Io stamani l'ho smontato tutto. Non sapevo cosa fare, tutto l'ho smontato. Tutte le radio, tutte le basi, spostato tutto. Cazzo, la rana di vera, la polvere che c'era dietro, una cosa allucinante, allucinante la polvere che si mette dietro le radio, questo cazzo di ventole, è un casino. Bene l'ho regolata questa, bene va lui. E Ugari è? Bene va oggi la radio, forse ha detto che era qualcosa spostando pure. No, stava solo al telefono di mamma, che è una ripugnietta, lei mi ha mostrato la risa. Allora si è dovuto uscire fuori. Poi c'è anche la batteria a mezzo scarica. Cioè sono qua. Natalì, freddo, vieni a casa tua. Ah, qua si sta bene, c'ho tutto spento, non c'ho niente acceso. Non ce n'è freddo qua, già sta bene. Pensa che l'abbia solo per ottenere il passaggio. Oh, signor. Ho portato quel telefono all'assistenza. Mi naggio di comprare un altro nuovo. Ma cosa chissà quanto mi rudenerane, Gitto? Quello un mese, ma secondo me mi hai spiegato il problema. Gliel'ho spiegato, sì. Cazzo, mica gira la linea. Io intendivo un interlocutore, però lui non sentiva a me. Capitola. Così mi faceva. Più c'aveva quel problema al sensore di movimento, gli ho detto tutto, gliel'ho resettato e vi raggiudato in modo che possiano controllarlo come ti vuoi niente. Si chiama sensore di prossimità, non di movimento, di prossimità. Ti posso dire una cosa, Natalia, guarda, questo telefono ce l'ho quasi 2 anni, l'S10. È un bombo, perfetto. Non mi ha mai dato problemi, super veloce. L'unico problema mi sta dando adesso la batteria, io già lo uso, Però, sai che la batteria è da cambiare. Io mi ho comprato quello della marca di mia moglie. È superiore questo, 4 giga di RAM, 128 di memoria, e già è bello come telefono, forse è meglio del Redmi 9. Allora Tigra, ho dormito ieri, a casa si è dormito mi Natali. Però allora, il discorso è questo, che questi Redmi sono di chi c'è che è buono. Sono quelli costosi, quelli da, se non mi ricordo, 500 giga mi pare. Vediamo un po' se c'era quella Eugenio. Sono qua. Mi sto scucciando. Ma Natalia, non lo senti? Basso come sempre. Ma se sollevo un po' il correme non lo sento più. Più Natalia, dai gas. Ma mi senti adesso, Eugenio? Voglio dire che ancora ci ho regolato bene la radio, gli ho spostato tutto, ho fatto pulizia e torra. Già l'hai regolata bene, mica sei cocco ma ne è peggio di Luca a me. Mentre c'è pedivella, capito? Pedivella senza cavalletto. Adesso lo dico a Eugenio tutto quello che mi stai dicendo. Adesso ti sì che ti senta la grande, di una salita. Cava. Però così temo di disturbare. Anche io sto disturbando gli uccelli. Mario. Attento Bologna, se scucci qua Porto Torres. Povero Gagliari oggi, povero Gagliari, mamma di Turchi. Perché contro chi deve giocare? Contro la squadra più forte del campionato secondo me, l'Atalanta, la macchina da Golcas, ogni partita va di 4-5 gol. Ma c'è più bisogno di un Gaglia, oramai ci scende in serie promozione. Beh, se non c'era una mossa se va la serie BC, è ultima, in base ha fatto 8 punti. Cazzo, la prima mi ha già 30, ha fatto il bronto. Oh, ha perso Cellino, ha perso tutto il Cagliari. Al Cagliari ci vuole il nuovo Cellino, non c'è niente a fare. E il nuovo Cellino ha c'è un allenatore ogni mese, a carità di un elemento. Mazzarri è un grandissimo allenatore, forse uno dei più bravi allenatori della Serie A. È che non c'è squadra, capito? Non in peso nulla, non in peso manco un franco. E io rinascio, noce va primavera, gabbia non scogliera. Ma lui tu sei imbaccato, mi Eugenio. Cantendi, direi. Stavo imbaccato il rimorchio, allora direi cantendi. Beh, adesso cambio radio, va. Questo è il 430 sol. Adesso vado col gemello di quello tuo, mio G. Però non c'è l'MC60 lì, Lì c'è l'Adonis. Adonis AM508, a suo cambio. Mi si la vita da me, mi. Più apparati. Dai, scende di patrulli. Sta scendo male, chi è? Forse abbiamo parlato insieme con Eugenio. Ho detto, mi si la vita da me. No, tocca lì, io no, non ne vendo radio. Quello che non ci avevo in più, io tutte vendute, queste me le tengo. Ce ne ho due solo. C'è un 430 e il 140. Allora, c'ho anche il 757, ma non lo uso mai. KK, no, non è parlato insieme, c'è qualcuno che sta uscendo male, chi è? Vabbè, aspetta che commutura. Andiamo bene, andiamo. Ma non è che quel poco è la tarina? Ma perché la portiamo questa pallina, non ho capito? Vattene a giocare, muoviti. Mi porta la pallina e la mette sui piedi. Poi su Gani Clava, un anno e due mesi, ma un'intelligenza fuori dalla normale. So qua, ditemi tu. Ma sei un cane di Berto, adesso come la trova a Curti gli fa il lavoretto. Io già poco dovevo fare lavoretto, beh. Lo sai cosa mi è successo in via Pascoli, al chioschetto, stavo passando lì nel marciapiede, stavo andando a prendermi un po' di frutta, po' qualcosa. E c'era vostro signore, c'era un cane, lei è piccolina, no, si è abbassata, e su cane mi devono rimbattere, ha colto un mosso, ma ormai glielo ho staccato, me l'avrebbe ucciso mi. Inizia a pigliare la parolaccia, tu brutto coglione, non sei un uomo grande di età mi. Cazzo, ma se il cane è tuo, sei così, perché non te la metti la museruola? Scusa cosa, ma va a fa culo, io cane duio. Cosa è successo, Lu? Questo cane di... Cavolo quanto è curto, forse più basso. Una mezza taglia di cane, no? Che ero lì al chioschetto di via Pascoli. Dove ci trovo la frutta, ce l'hai presente? Via. Ero lì, stavo passando, la marciapiede. Praticamente c'era molto sino con questo cane, quindi non ribatti chi su cane a Dea. Cazzo, Giovanni, ma non è che ho fatto il tempo a staccarlo, sembra una bella ammazzata. Chiesto che bastardo, ma quando mai, cazzo, al guinzaglio si tiene il cane e devi stare attento che non faccia così, perché se no lo devi dirà e si l'abbia mangiata così, poverina. Va, le è andata bene, credimi che le è andata bene. Cazzo diavolo, è piccolina quella lì. Se io vedo, il mio cane non può vedere quelli grandi, tutti i cani grandi, li piglia di parte subito perché uno di quei cani grandi l'ha morsicato. Però io lo sonno, come vedo un cane grande allora tengo bene il guinzaglio, a chi lo so con i passi. Ma Natali, se il cane, lui sicuramente lo sa. Perché visto che, vabbè, a Dea, c'è una cane c'è poi c'è l'umagna Lugania, la Lugania, tu. Ora da ghira. Cioè sono proprio la ganciata, la capotata, la ganciata per la pancia, però non ha stretto. Ehi, ui, a fianco quella più cutra, qui quindi, a fianco. I cani bisogna portarli al guinzaglio e se sono un po' pericolosi la museruola. Ecco perché io i miei non li faccio mai uscire, vabbè io ho lo spazio grande dove corrono, fanno, però con gli altri animali sono bastardi, non c'è niente da fare. Oggi, guarda, ti posso garantire, non al 1000 per 1000, forse al 3000 per 3000, che te è un cucciolino, una cuccioletta piccolina, piccola taglia, non so se l'hai vista su Facebook, l'ho messa un po' di volte, ed è bravissima, praticamente lì come vede i cani, si... Scodinzola inizia a fare la pipì perché è contenta. Non è che va a morsicare gli altri cani. Al massimo ti abbaia ma non ti morsica. Hola, buonasera. Sì, la buona anima è Mario. Aspetta, ma... Sì, già l'ho vista su Facebook. Già, ma i cani vanno tenuti, non c'è niente da fare. Soprattutto quando si sa che sono aggressivi. Avanti Mario. Buonasera, ma io ti sto piano l'altro amico, Mamma, troppo proprio il cuore. Buonasera, avanti pure chi tocca, siamo qua. Quello che senti basso è Luca, ora non so se senti al zio Natalino. Zio Natalino. Uia, dimmi. Tu a Mario non lo senti? No, non l'ho sentito ancora, ma c'ho QRM alto io. Adesso ne ho tolto tutto lo squelch. Mario, fa un passaggio. Buonasera anche al zio Natalino, buonasera anche a Luca, ma io non mi sento. Purtroppo QRM è manetta e non so che fare. Comunque continuate voi, io vi ascolto, perché altrimenti sarebbe un dramma qua. Pensare in QSO, tranquilli, continuate pure, vai lì. Un attimino che sto cercando una cosa, mi riprendi lui? Via. Radio. Radio pure di moto, Lucarelli. Ehi, con l'accendino è per accenderlo, capito? Non lo sento Eugea, Mario, no. Sento bisbigliare, però è incomprensibile quello che dice. Ma te lo dicendi, no? E di Cira, però. Cos'è che te lo dicendi? Mia è lui. Buonasera. Ciao, Eugenio. Ciao, Natalino. Ciao, bello be. Allora, come va la storia? Allora, mi sembra sembrato, l'ho sentito anche a Luca, avanti Luca, Luca è impegnato. E beh, come va lì a Porto Torres? Ehi, ora voi ci dica, così veloce. Senti un po' se senti l'amico Mario, Mario, lo senti a Franco da Sorso? Benissimo direi, avanti Franco, buonasera. Buonasera Mario, me l'ha ascoltato, dai, Franco da Sorso. Me l'ha ascoltato per la prima. Avanti, se, non so se mi senti bene. Sì, sì, ti sento benissimo, forte, chiaro, tranquillo, arrivi come un genio praticamente. Sorso io la vedo da qui, perciò non dovrebbero esserci problemi. Avanti pure Luca o zio, come si chiamava quell'altro, mi ricordo più, avanti. Luca, non lo senti a Mario? Vediamo un po', Mario, mi senti? No, c'ho un disturbo, cavolo, c'ho un disturbo in questo canale, boh. Mario, tu a Luca non lo senti? No, purtroppo sento solo il beat quando lascia e nient'altro, non è incomprensibile perché arriva proprio, arriva sotto il QRM, diciamo, via. No, ci dobbiamo organizzare, devi cambiare posto a quell'antenna, devi cambiare posto a quell'antenna. La metti a casa e ti compri un bel rotolo di filo fino a casa tua. Ma dici com'è? E la metti qua a casa, la tua antenna. Ti compriamo un bel po' di rotolo di filo e la facciamo un prolungone fino a casa tua. Ah beh, quello sì, è così, vedrai che il corrente se ne va. Ma guarda, è incredibile, io pensavo di... Vabbè, no, ho fatto dal 74 che modulo. Dal 74 non ho mai avuto problemi di QRM, tranne quando c'è propagazione e quando passa qualche macchina che è una schermata. Però ti giuro, sono venuto qui, incredibile, fisso 7 di QRM e non c'è niente da fare. Tutti quelli che arrivano, che mi arrivano sotto, non li sento io, senti, deve esserci qualche centrale, altre cose, no, chi non anda, vabbè, va. Non fateci pensare, se no mi dovete rimontare tutto e va a culo. Ma non è che c'hai qualche antenna di coso, di telefoni oppure qualche altra antenna tipo Enel, cosa così? Sì, ho un po' di ripetitore nel palazzo qua, quasi di fronte a me, deve essere un 5G tra l'altro, perché le antenne sono molto più piccole di quelle per la quarta generazione. E l'hanno montato praticamente l'anno scorso, forse anche un anno e mezzo fa, sì. Però non so se è quello, perché li senti, no? Il digitale lo senti quando sì, questo qua è proprio un rumore diverso, è qualcosa che frigge, hai capito? Che di continuo, 24 ore su 24, incredibile. Capo, siccome io ho qua due antenne di telefono, ho qua di fronte a me, e tanti anni, diciamo tanti anni fa, fino a 5 anni fa avevo QRM a tutto andare, poi hanno fatto delle modifiche e QRM si è abbassato, in effetti io come QRM ce l'ho quasi zero, ce l'ho. Non so, probabilmente sono le antenne che hanno fatto delle modifiche, perché prima le sentivo anche forte di QRM. Anche come accendevo avevo QRM 6, 7. Guarda, non lo so, qui stanno arrivando, non so se sono loro che fanno QRM o meno, perché tra l'altro c'ho proprio un pannello dell'antenna che è puntato verso di me, quindi da lì non. Non lo so, non te lo so dire, ma anche perché vabbè, poi quando mi allontano da casa che metto la radio in macchina, compare, hai capito? Però ci sono dei punti in cui io giro a Porto Torres che mi si alza e mi si abbassa, si alza e si abbassa, è sempre sul QRM lì. Evidentemente non so, secondo me sono più centraline per i LED, per i cose che fanno questo rumore, per dei come si dice? perché qua mi arrivi tu come segnale, mi arrivi benissimo, mi arrivi 9, è una bella radio di 5, bella pomposa, e come Eugenio lo stesso. No, io disturbi non ne ho assolutamente. Voglio dire avanti che prima sei stato sovramodulato. Ho detto, sto chiudendo tutto qua, a vedere se mi sente Mario, Maria. Franco da sotto, se mi senti. Sì, che ti sento. Chi sei? Antonio sono, Antonio Cerino. Capo Antonio. Sì, ti ascolto, segnale di 7, Radio 5. È buona. Bravo, saluto, mi parli da centro da casa. Ok Antonio, non rompere niente, fatti sentire, non è quello il problema. Avanti Eugenio. Sì, ciao sceriffo, ciao, ci sentiamo, tutte cose, dai, buon appetito, buon rientro a casa, tante cose, occhio alle gomme della macchina e niente, attento al vento, ciao. Perché sta chiudendo? Signor radio. Si sente tu tu tu. Poi cazzo vai da pure entrare sul microfono. Isso Maria. Ehi, questo è la donna, ci vanno 508 con 140. Isso Maria, ti pare un tamburo, dum, dum, cazzo. No, no, no. Mi ho dimenticato di collegarlo, ha detto, cazzo non funziona. Stamattina stava funzionando, invece siccome ho attaccato tutto per fare pulizia, allora mi sono dimenticato di attaccare un connettore, siccome c'è quel connettore crippato, capito? Allora, mi sono dimenticato di attaccarlo, infatti non attendiamo ancora luce, perché qua si accende la lucetta rossa quando è alimentato dalla radio, capito? È un bel microfono questo, funziona benissimo, bello, anche tipicamente, e non ne ho trovato 60, l'ho comprato questo. Sì, lascia bene, sì. Diciamo che è ribombante la modulazione, un bel forte. Quello è ribombante. Ma qualcuno come l'attarino, mio, scusate, l'ho visto che si stava bucando l'attarino con lo spinello, sotto al ponte. Mi vedi lui il cocco, ma non è per quello. La gente è finita, vuole uscire fuori. Riprendi oggi. Oh Mario, vuole prendere voi, È più bella la modulazione del 60 però, Oh fraccia, anche tu sì, cosa hai detto? È più bella la modulazione del 60. Di questa? Non so, no. Non mi sono ascoltato questa, spinge, è bella, corposa, bella forte. Ma ci possiamo stare un po' al 12? C'è questo rumore, cavolo, Mi sento disturbati a Franco. All'altro, cioè, non mi ricordo, è Eugenio, un po' disturbato, questo rumore, a 10 solo, mi cavolo, Aspettate, oh scusate, ma io devo uscire un attimino, ma ci sentiamo, magari dopo, ciao Eugenio, ciao Mario, ciao Claudio e Luca, ci sentiamo dopo, dai, riprendi Eugenio. Quindi Luca mi senti disturbato a me, come mai? Ma perché ti arrivo basso? No, vabbè, ti ascolto, io arrivi segnale 3 qua, solo che c'è questo sotto, capito? Ma ti sento, però è fastidioso. Ma solo Santiago 3 ti arrivo, cos'è? Sì, Santiago 3 sta arrivando oggi, poi ti ascolto, dai. Baracchino, cioè lo Smith è abbastanza, già di città, sarà tratto il mio baracchino, tu che sei, con i segnali sei il più esperto. A chi è che devo dare il segnale che mi sono allontanato? Ah, tu stai arrivando quasi sul più là. Quasi sul più, già è giusto, signor, già è giusto, sto andando quasi 50 watt, già è giusto. Non so voi come va tarato questo Smith, prima era proprio secco, tutti i bassi. Oggi, non lo so, quando ti arrivo io oggi a te, sto andando con 4 watt, 5 watt dalla radio, mi vai. E tu mi arrivi fisso a 5, da 4 passi a 5 modulati, capito? Cioè mi arrivi più forte tu che io. Allora, praticamente tu sei 3 picchi positivi e sali quasi a 4. Beh, basso comunque sono, basso. E cosa vuoi ti dica? Usi mi segna, non ti posso dire che arrivi 9 dezzi quando non arrivi. Arrivi 3 a picchi positivi però. La radio che è bella, capito? Magari sei Lui si favorevole a me. Invece l'altro, se non mi ricordo il nome, non è più entrato, quello di produttore, secondo me arrivava a 9 qualcosa. Che c'è la mantova, chi è? Non mi ricordo il nome. Il produttore si chiama. Ah, Luca, sì. Luca c'è la mantova. Vabbè, ma Luca non esce con 5-4. Ma no, non è Luca l'altro. Il produttore c'è solo lui che ha la mantova. Poi chi c'è? Claudio. Ma Claudio la mantova non ne ha. No, non è Claudio, guarda che passavo sempre sul 12 ed era l'unico che mi arrivava più forte di tutti, era oltre il 9. Però mi abbia tacciato il Pozzi, chi è? No, quello è Emiliano, no, lui sta dicendo Antonello. Antonello, bravo. Sì, Antonello male meno vedete a me. Arriva forte quello, proprio bene, bene, bene. Sì, ma l'hai sentito anche in questa posizione adesso? Eh? Antonello, l'hai sentito adesso? Dovrebbe adesso. No, dovrebbe adesso, mi arriva ancora più forte, sicuramente. Anche tu hai aumentato di qua. Forse non hai preso ancora. Mi arrivavi 8, ma 7-8 mi arrivavi, adesso sei quasi 9. Capito? Ce l'avevi già quella radio, perché io mi sono trasferito ad aprile qua. Aprile, a maggio sono arrivato. Quindi ce l'avevi già quella radio. E mi arrivi quasi 9. E Antonello c'ha la radio che ho dato io. Il 44 e poi c'è una bella posizione lì a, è più un po' più indietro di te, non lo so, ma forse è più aperto di te. No, è più avanti di me, è molto più aperto. È più avanti di me, è molto più aperto. È un bel forte, ma tutti arrivate bene alla Portatore, sì? Sia tu, Gianluca, Emiliano, Claudio mi arriva fortissimo lo stesso, molto molto forte, forse quanto Antonello. Qui c'è Gavino, Davarai, e mi arrivate tutti bene a me, non ce n'è problema. Gavino non ha più niente, ci ha venuto tutto. E qua c'è un USB, ha fatto poco di Gavino, va a pulire l'antenna, va a fare tutto. C'è una bella stazione, il padre c'è una bella radio, USB. Ma morto è Antonio, cos'era portuale. Ah, dici Gavino l'altro, forse sì. Non lo so, non ne sono sicuro, ma forse sì. No, Gavino ce l'ha, come passo, avevo sempre l'antenna, poi non so se abbia ancora la mia qualcosa. Ma io ci ho volato Gavino. No, te lo dicevo portuale, il padre di Gavino, Antonio RSI. Ehi, già ti ho capito, il padre di Gavino Lupus. Dai, già ti ho capito. Non lo so. Perché non l'ho più sentito, vabbè, quindi non ti piace la modulazione, Luigi? Ma guarda, puoi cambiare apparato, puoi cambiare microfono, puoi giambare su di voi, la tua voce è quella, si sente che hai cambiato microfono, ma la modulazione è bella, è bella ignorante, come dico io, bella grossa, amplificata, è bella comunque, capito? Si nota poco che hai cambiato microfono, ma chi la voce di due gli sa. Hai cambiato microfono a radio, adesso sto usando 140, poi l'ho fatto l'anno con 430. Questo l'ho attaccato stamattina, perché mi mancava il connettore che è clippato, ho capito. Quindi me l'hanno preparato, me l'ha portato Gianfranco. E l'ho attaccato stamattina. Va bene. Natalino? Non c'è più quel poco male di Natalino. Sì, boh, mi sa di no. Io mi sto stendendo la maglia, il pantalone, qua. Ma ti produci di... Non uscire, non c'è freddo. Ma devi volte, qua, a casa. Sta attaccata alla radio, usci, usato un uretto. Ma esco un po', me l'ho invitato a un compleanno. Allora c'è da mangiare e bere, vai. No, infatti radio mi ha detto quando chiudo il bar non rientro. Va bene. Arrivederci, buon viaggio. Io mangio e metto in gioco. Oggi è sabato, bisogna uscire. Ehi, claro, vabbè, dai, esatto, se non riusciamo a andare, siamo su Google e ci esce. Una cosa, è da tua, vabbè, non so questo mi si invece, però lo dico. Magari anche prima pure, mi. Ripeto, sono momenti che non ho voglia di fare niente, me ne sto al computer, oppure mi accendo la TV, mi guardo quello che mi interessa, capito. Dipende dalle giornate, eh? Io ho capito, ma quando uno deve lavorare, cioè la rientrata stamattina, aspetta che sono bloccato. Italia si è alzata stamattina alle 7:30, è andata al lavoro, è rientrata che erano più delle 2, adesso sta riandando al lavoro, chiude alle 10:30, se tutto va bene, cazzo, voi andando in giro, domani mattina devi aprire alle 7:30, e cosa c'è di gingare, gente? Ah, uscendo, se devi fare il blu o se mi sei stato a casa, ma no, anche no, non ce l'avrei fatta. Luca, guarda se è cambiato qualcosa adesso nel segnale. Io ho provato per la prima volta a aumentare il watt del baracchino per vedere un po' se è cambiato qualcosa. Cazzo, 6-7. Addirittura, mi capita. Mario? Sì, ma non lo mettere così alto, però vabbè. Mettilo a 20 watt è importante, mettilo. Guardati, cioè, in quella radio c'è il power, dove c'è scritto power. Quelli sono i watt. Lo metti a 20 watt e lo lasci stare così. Sì, no, era per una curiosità. È la prima volta che provo ad aumentare il watt. No, adesso lo riporto a 10 come la prima. Anche a 20 lo puoi mettere, se è calda lo puoi mettere anche a 20, non c'è nessun problema. Io ce l'ho sempre a 20 watt, è importante, a 140, e poi 1 watt me la danno una cinquantina, capito? 10 watt sono troppo pochi. Se sentero uno adesso pieno. E poco fa quanto ero? Come li ho aumentati? 8 e mezzo, dai, facciamo 8. 8 di portante, sul parlato di 8 e mezzo, adesso 6-9, sul parlato 6-9 più. Come è possibile se li ho diminuiti i watt? Adesso li ho diminuiti, poco fa no. Comunque da me sei salito notevolmente. Adesso li hai diminuiti i watt. Adesso sono a... aspetta, sì, a 10. Adesso sei come prima. 8 e mezzo, invece quando hai aumentato si è andato a 9 pieno, sul parlato di quasi 9 più 5. Io adesso mi ho riportati, la lancetta ci ferma sul 10 spaccato. No, la faccio lavorare a bassi regimi, non mi interessa. Vanno bene, io non ho mai aumentato la potenza lo stesso. Però questi sono dei muretti, capito? Non ce n'è problema. Funzionano bene. Quanti, quanto stai assorbendo? 5, 10? No, 10 ampere sta assorbendo. No, io la voglio far lavorare a regimi tranquilli, 10 watt, venne a ribuchi. Dai. Chiappa di Rogero, ero via. Mamma mia, come sto. Capito, Lucaria? Di gingiali, l'aria, vabbè, c'ha 35 anni, però una macchina da guerra, mi a casa, c'è freddo, stare in giro, no, c'ho appuntamento con le mie amiche, quando chiudo mi voglio un po' svagare, certo, domani mattina te ne hai bisogno, dici, alle 7:30 devi andare a Abri, vedi te, fai camomilla, fai come anche di biasi. Va bene, quando dorme un'ora e mezzo, due, va bene. No, al mezzo va bene, sì. Vabbè, combattere macchia, rubare. Mamma mia, che mestiere di cazzo. Ma tuo genero ce l'ha sempre la tua lavaggio? Sì, in più di un anno per lavaggio, mio genero. Non lo sapevo. Sono rimasto ne avessi uno. No, ne ha due. E adesso sta facendo un'altra cosa, fa solo una parte... Lucidatura affari, tutta la parte non dell'autolavaggio, ma insomma che comprende tutto il sistema della macchina, il trattamento della pelle, moquette, cappotte, tutto. È pieno di salvetto. Stavo lavorando anche io, non so se è uscito, ma si è serrato. Chiamato stamattina, si andava a prendere un caffè. C'è un bel lavoro perché c'è 5-6 concessionari che le portano le macchine, capito? Yeah. Ma Stefano si chiama? Mario si chiama, non Stefano. No, non è lui. Mario Lino lo chiama. infatti a me, da quando l'avevo comprata, la mia gli ha fatto il trattamento dei cilini in pelle. Sono rimasti sempre nuovi, gappa. Chi c'è rimasto qua, ci dici? Io, tu e le rose. Io, tu, Mario, se c'è ancora, Luca, sì, Natalino. Ma è sceriffo, dove è andato? Boh. Attento, cipolla! Ci sono queste due risate di evasione. Ah, maledetti. Quando abitavo a Porottore, se lo già avremmo combinato. Esso adesso. Conosciuto lei Antonio quando si era costruito il chopper? No. Perché voglio una bicicletta fatta a chopper. Tu presenti per un chopper, la moto chopper. Sì, ve la vieto. Però a pedali. Ma avere i trombetti in piazza. Po. Cazzo, canti la gasinista. Portaggio. Attento, c'era, no? Guarda, tu sei un po' di amore, è collega tuo, no? E allora? Diciamo, ricordo. No, Antonio è fantastico. Antonio è allucinante. Ma sempre lo sta facendo il coso lì del CISOM, no? Lui è Francesco Bugunari. Oh, Francesco non so se c'è ancora. Lui mi sa dato che l'ho visto. Sì, lui è vice comandante, che è la spalla destra di Giampaolo. Con Zizemo. Ma poi Zizemo. Andiamo via, andiamo, metti in zucca. Oh yeah. Allora. Lui è la spalla destra, il braccio destro, il piede sinistro. Da fatto il bocca di lì. Se ragazzi c'è un frantonio di Biscisotto. Quando c'è la sede lì all'Arena Redda, diciamo, non l'ho mai visto. Ah, l'Arena Redda sono io, ero rimasto via le Venefigne, mi sembra. No, io parlo, no, la sede deciso, ma adesso è alla stazione. Io parlo della sede CB, ti ricordi quando c'era la sede CB lì all'Arena Redda? Sì, è vero. Ok, il gruppo CB è Eseo Ruggiu. E lì non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto che mi sede io. Lì dove c'era il deposito della Shell. Era lì. Cosa stavo dicendo? Ah, ci sono, ma dov'è? Dove c'era la stazione prima? Al palazzo della stazione. La stazione nuova, lo sai dov'è? Passando dalla circonvallazione. Prendi i giri da Sassari, scegli, prendi la circonvallazione, arrivi al ponte e giri a destra, la trovi subito lì nel piazzale della stazione nuova. E al comando dei vigili urbani invece, dove c'è il comando dei vigili urbani, cosa c'è lì? Lì c'è l'Avis vicino alla piazza. I vigili urbani sono vicino al palazzetto, dietro la caserma appartenente dei carabinieri. Vabbè, io l'ho conosciuta sempre lì. Sempre lì dove c'è il coso, dove c'è l'apice adesso, dove c'è la pizzeria di Claudio. Ehi, dove c'è la pizzeria di Claudio? Perché lì abita. No, ma Claudio non c'è più, no. Non abita, non c'è più la pizzeria di Claudio, adesso c'era un amico mio. No, e dove adesso? Di nuovo la via di Satellite? Ma non lo so che fine abbia fatto, non mi sa proprio che ha chiuso, No, mi sembra che è tornato alla normalità. Pizzi al taglio fa, mi ha detto mio fratello. Io scendevo a Palottolo e giro Donatella. E Claudio mangia la pizza. Un bel buono era. Un bel buono. E adesso c'era un mio amico. Ma già tanto. Il figlio stava lavorando pizzaiolo, da, non me lo ricordo. Oh, e come si chiama adesso quella pizzeria? La Stella. Adesso conoscendo il portatore ci vediamo andare a mangiarci una pizza lì, andare com'è, se è buona. Tu che hai vestito ti sei, pranciato ti sei. No, era telefono con Roberto, aveva problemi al computer e poi ha risolto, siccome non c'è il mouse per fare le prove. Sì, ho già franciato. Come non c'è il mouse, cazzo? Hai detto mouse, non ne hai? Sì, ce li ho quelle col cavo. Ma ti sei tolto, ti dici? Se no le do il mouse, quello che lo trovo, però. Il mouse suo, che c'è anche il pennino. No, il pennino te l'hai dimenticato attaccato al computer, perciò il pennino non è più. C'è il coso USB, dai. Sì, ma le do il mouse a lui, visto che c'è il pennino. Oh, allora daglielo. Oh, mica. No, stavo guardando se c'è la computer da prendere uno, se fa figli, no, non ce l'ho. Sono andato a cercare, mi tocca andare alla Ginesi a fa. Vado a Piazza dei Segni e chiedo di lì se per caso ce l'hanno. Vabbè, buonasera. Ah, ciao Roger, beh senti, no, ero al telefono poco fa con Luca, siccome ha installato quel computer là, quello che me l'ha dato Claudio, ho provato a accendere, però se non va giù un mouse non posso fare niente, ero convinto di averne uno a casa, invece non è un mouse, è uno di quelli che ci puoi attaccare a quattro cose, una specie di multi attacco USB. Sì, un coso, sì, un coccoma, te l'ho anche detto, mouse ce l'hai, sì, ce l'ho. Ero convinto fosse quello il mouse, cazzo, invece non è il mouse, è un affare dove puoi attaccare quattro pennine. Ma c'è il giudizio di ultima generazione, non è bruciare i giochi, capito? No. Un attimo, riprendo subito. Mario, riprendi. Ma Roba, sai che conviene fare? Esistono, ce l'ho io sempre per lavoro quello me l'ho comprato. Sono delle porte USB, sono 5 porte USB, no, contattino sopra, 01. Ti compri una di quelle, ci metti tutto lì, ci metti quello del mouse, e te lo metti sopra il computer, lì, e non ti dà fastidio. Ci metti anche la pennina wifi. Io quello lì ce l'ho come se fosse un mouse, l'ho già comprato io. Ah, le porte USB, ho capito, andava bene, tutto lì ci attacchi, roba. Pensa che si hanno che dai cinesi in Piazza dei Segni e ne bigli uno, se vabbè aperto già sarà aperto, ma ce n'è quello là, roba del genere. Claudio, Musso, non vuoi più. Chi c'è su questo canale lui? Prenditi uno col filo che fai prima. Questo canale c'è io, Claudio, poi c'è Eugenio, il produttore, se l'altro non mi ricordo il nome, Carlo mi pare, Mario. Ha sentato Gianfranco, ciao anche Gianfranco, Carino c'era, poi boh. Cosa vuol dire? Sotto mi appare smart image on da una parte, smart image off dall'altra parte. Devo fare scorrere con le frecce per toglierlo. Ci vuole il mouse. Sono col mouse, con le frecce non si può muovere. Fammi la foto, mandamela. Aspetta. Ecco, già sono vicino, ho portato. Porca miseria. E te la giubilito. Ciao Gianfranco, buonasera. Sì, ciao a tutti. Mi sembrava strano che qualcosa andasse bene. Sì, ma gli ho detto, il mouse ce l'hai, tutto ce l'hai, sì, c'ho tutto, mia mano farò mouse. Fidati che c'è il pennino attaccato del mouse sulla porta USB, altro ce l'aveva. Ero convinto che quello fosse un mouse di quelli ottici, invece è un multi-attacco USB, mi sembrava un mouse, quelli che può attaccare quattro cose. Ah, ma non mi usciva quello roba, quello è del monitor tuo. Del monitor mio? E quello non mi usciva dal computer a me. E che cos'è allora questa cosa? Piatto io. E gira della Gianfranco, però se no non mi usciva quello roba. Ho fatto il suo monitor mio, o Lucarino. Ho fatto il monitor suo, quello della Philips, quello che hai detto tu, quello della 19. No, Luca, già è uscito, con le frecce del mouse c'era on, off, mi dovevi comandare. Vabbè, a me quella cita mai uscita. No, con le colme del mouse, sul monitor c'era scritto on, off, ho spostato la freccetta, ho messo ok e ne è uscita. Sì, però ripeto, a me non mi è mai uscito la roba lì. Solo che senza mouse non puoi fare niente, non mi affettarmi un mouse. Ma non so quanti ce ne ho buttato, non ne avete idea. Ma ricordati deve essere USB, no? Di quelli attacco rotondo, USB. Io già lo so. Vabbè, vado a prendere questa roba, dai, rimanete, se ci siete ci sentiamo dopo. Caccia la Juve comunque se ti interessa. Ma dove sta giocando? Con chi sta giocando? Mi pare non con Fiorentina, con Gare, forse con la Fiorentina. Ma la Juve sta vincendo. Con la Fiorentina 0-0, è prima del girone, già passata agli ottavi di finale. Il campionato è che devi ancora imparare a giocare a pallone. Non lo so con chi sta giocando, non la sto guardando il campionato, la sto guardando solo in Champions, perché in Champions fa veramente delle bellissime partite. Recuti tutti, adesso c'è Juventus Chelsea, la